Giocatori, prima di rispondere, vi ricordo come utilizzare i tag a vostra disposizione. Il tag ricordo vi consente di riascoltare i dati del quesito, mentre il tag indizio vi fornisce un aiuto utile alla risoluzione. Quando vi sentite pronti, invece, posizionate il tag voce sullo schermo per dare la vostra risposta.